Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. 22 e 18 minuti, in 19 in questo preciso istante. Questa è Blu Radio Veneto. Oggi è venerdì 15 aprile 2011. Questa è la voce di Agostino, che anche questa sera con una forma di eccezione quasi è qui presente a tenervi compagnia, ma soprattutto sono in compagnia del mio carissimo Maurizio. Sì, buonasera Agostino, grazie di partecipare a questa speciale del venerdì di Rock Wave Live. È una cosa molto positiva. Fa bene. Sentire un artista dal vivo fa sempre bene, in qualsiasi giorno sia, o lunedì o martedì o mercoledì, non importa. Basta che suoni e lui è. Sta suonando fra poco, fra qualche minuto. Qualche istante lo presentiamo. Allora, questa è la fascia oraria chiamata Rock Wave. Staremo in compagnia fino alle 24 con questo cantautore. Vi ricordo le nostre frequenze: 88 e 700 MHz e 94 e 600. E poi il nostro sito www.bluradioveneto.it. E poi vi ricordo le pagine Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, oppure c'è quella dedicata appunto alla musica rock che si chiama Blu Radio Veneto Rock Wave. I nostri numeri telefonici in studio è lo 049 875 6423. Se invece ci volete mandare qualche messaggio, qualche sms a questo cantautore, oppure anche fargli qualche domanda, qualche saluto eccetera eccetera, vi ricordo il 346 23 20 0 33. Detto questo, io direi di presentare questo cantautore. Si chiama Angus MacGaug. Ciao Angus. Ciao e grazie di avermi invitato. Hai fatto un buon viaggio, Angus? Ottimo viaggio, dopo magari vi racconto qualcosa del mio viaggio. Perché from Modena by Padova. Il modo di viaggiare c'entra molto con le mie canzoni, perché dopo magari diciamo qualcosa. Esattamente, esattamente. Bene, questo è il tuo primo disco da solista. Questo è il mio primo disco da solista, esatto. Però la vicenda musicale tua non parte da qua, parte da un po' di tempo fa. Come si è sviluppata, Angus, la tua vicenda musicale? Dunque, in realtà Angus MacGaug era già il nome di un gruppo con cui suonavamo da tanti anni. E, è nato come per tanti ragazzi fondamentalmente in quel di Modena. Sì, vicino a Modena. Vicino a Modena. E paesi limitrofi, sì, un po' di provincia emiliana. Una provincia importante Modena, piccola città bastardo vostro, diceva Francesco, nel senso positivo del termine. No, ma è una provincia piena di gente che suona, come poi tanti in Italia, giustamente. E niente, qualche anno fa per cui ci siamo messi, sì, e noi abbiamo iniziato a suonacchiare un po' ispirati soprattutto da tanta musica, soprattutto gli anni 60, 70, queste cose qua, beat rock, folk rock, da Beatles, Rolling Stones a Neil Young, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash, queste cose qua. Quindi un po' tra West Coast e musica non soltanto americana. Esatto, esatto. E questo ci piaceva molto. E niente, questa cosa è nata in questo modo, abbiamo suonato per tanti anni insieme. Il gruppo si è evoluto, ha cambiato, come succede a tanti ragazzi, tanti gruppi, come tutti i gruppi, insomma, gente che va, gente che viene. E fino a che qualche anno fa, insomma. Ma tu suonavi l'elettrica, mi pare. Suonavo la chitarra elettrica, esatto. Esattamente. Cantavo alcuni dei pezzi, non sempre, e suonavo la chitarra elettrica, fondamentalmente. Per cui pezzi nostri, in italiano. E qualche anno fa ho avuto la fortuna di partecipare a questo corso del Centro Musica di Modena, che è una struttura pubblica del Comune di Modena, che fa corsi e formazione per musicisti in occasione di incontro con autori. E lì, insomma, collaborando con questo corso, tenuto da Paolo Benvenuto, tra l'altro, quindi, insomma, bravissimo, conosciamo, bravissimo. È stato un incontro veramente importante. Da lì, insomma, abbiamo preso una piega un po' più seria e abbiamo registrato un progetto molto bello con i nostri pezzi, se non che il gruppo intorno al 2007 si è sciolto perché abbiamo preso vie diverse. Eravamo in tre e io sono rimasto a Modena, lavoravo, suonavo, vivevo a Modena, vicino a Modena, e il nostro batterista Lucio è volato via, ha seguito una ragazza, esatto, ed è andato a stare in Australia. Bello, è bravissimo, rendendo le prove tremendamente difficili. Certamente. E il bassista invece ha avuto un borsa di studio per andare in Francia ed è ancora. Quindi vi siete spostati in giro per il mondo e per l'Europa, Francia e Australia. Esatto, che è molto bello perché comunque, cioè, intanto io ho un piede a terra a Parigi e una Sydney non è differente, non è mica male. Quando voglio fare una vacanza, sì, Parigi è facile, Sydney è un po' più complicato. E così, allora da solo mi sono rimesso a chitarra acustica. Sì, nella tua biografia c'è scritto: hai messo sul tavolo la chitarra acustica e hai cominciato a creare, a sviluppare. Esatto, esatto. È successa questa cosa. mi sono messo lì con quei dischi che mi piacevano, delle cose un po' vecchie e un po' nuove che sono uscite in questi anni, che mi hanno... ti hanno entusiasmato. Esatto. E da lì è nata questa cosa, insomma. Hai sviluppato il tuo progetto da solista. Sì. Salutiamo il nostro direttore artistico che ti ha seguito per un anno, esatto, consecutivo, Albert, che finalmente sei arrivato qua dopo un anno di mail. Esatto, finalmente sei arrivato qua. Salutiamo Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico. E quindi sei sviluppato questo progetto nel 2007, poi sei stato anche in, sì, Australia, dobbiamo dire anche questo. Esatto, e a cavallo tra il 2008-2009 ho iniziato a buttare giù questi pezzi qua, a farmi un po' da solo, a fare qualche data così nei posti in cui ho già suonato, a dire dai fammi suonare che provo un po' a vedere se questa roba da vivo funziona. E poi, complice il fatto che appunto con Lucio, il nostro batterista, tanto che lo ci sentivamo, nell'estate del 2009, dai, soldi da parte, e via, una baza di ferie, abbiamo trovato un mesetto libero intero con il datore di lavoro che ha incastrato un po' di robe e siamo andati. Io sono stato giù un mese a Sydney a suonacchiare, a scrivere un po' con lui. Cari ascoltatori, voi non lo sapete, prima abbiamo parlato un momento con Angus e ci parlava di come l'ambiente australiano, come si suona in Australia. C'è un altro approccio, vero Angus? Ma io sono poi un osservatore parziale, perché sono stato giù appunto un mese in realtà, però ho avuto la fortuna di girare un po', soprattutto perché appunto Lucio, il mio amico, in Australia ha coronato un suo sogno, perché lui veramente giù, lui in Australia vive facendo il batterista. Cioè fa il musicista, fa il musicista a tempo pieno. Lui ha risposto a un annuncio, un gruppo che si chiama Faker, e senza per chi fossero. In realtà questo gruppo ha un contratto con la EMI australiana, quindi non hanno mai messo piede fuori dall'Australia, ma in Australia fanno una cosa come 15-20 date al mese, però quando suonano, quando portano fuori il disco, certo, in quelle 4-5 grandi città che ci sono, però sempre il pubblico esaurito. E così abbiamo un po' girato per vari pub locali e atmosfera diversa, certo. Poi dall'Australia, io ricordo, Alberto è qua, lo sa sicuramente, che noi abbiamo sempre amato un grande gruppo australiano, si chiamano i Church, te ricordi? Te ricordi anche te? I Church era un gruppo, e poi gli Udgurus c'erano ancora prima, quindi facevano musica un po' diversa. Ma i Church, dopo mi perdo io. E Triffid, ecco, bravo Alberto, i Triffid, delle cose meravigliose dall'Australia. Ma l'Australia ha una grande caratteristica, secondo me, e che è molto legata alla dimensione dal vivo. Esatto, sì. I gruppi australiani tendenzialmente dal vivo devono spaccare. Devono dare la sua potenza. E se anche uno gira nei locali a sentire gruppi più sconosciuti, i ragazzini che vanno a fare le prime serate, però mi ha colpito dal fatto che questi suonano tremendamente. Poi posso piacere certo, artisticamente, ma suonano. Uno entra e dice ma chi sono sti qua, quanti dischi hanno fatto? No, nessuno, la prima volta, tanto di cappello questi qua. Per il tuo Angus non è stato un approccio elettrico, un approccio elettroacustico, molto acustico, qualcosa, sì, di elettrico c'è, sì, però molto acustico. Sì, esatto. I songwriter un po' particolari, esatto, che ti hanno ispirato, solo ispirato, perché la musica è tua al 100%. Ma allora, come dicevo prima, io ho avuto una grande infarinata data un po' da dischi trovati in casa, amici dei genitori, per cui io ho proprio in una parte dentro di me radicata in queste cose di Neil Young, un po' della West Coast, cioè, sono una parte importante. Facciamo così, Angus, presentiamo un primo pezzo dal disco, sì, poi parliamo ancora. Sì, molto volentieri. Che traccia hai scelto per cominciare? È la prima traccia del disco, si chiama An Anarchist in Parliament, che è un pezzo meraviglioso, dobbiamo dopo cercare di capire, che è molto complesso ma molto interessante. Ed è un pezzo, uno dei primi pezzi che ho buttato giù quando appunto non ho più suonato col gruppo, per cui ho scritto da solo. In realtà non mi metto in questo a registrarlo, questa cosa è bella perché il pezzo appunto comincia da solo, poi, sì, si aggiungono delle cose, ci sono alcuni altri strumenti che entrano, non vi svelo quali, adesso lo sentiamo, però si arricchisce, diciamo, ok, perfetto. Probably the first to attempt for a better role, and you feel a little bit misplaced, like an anarchist in parliament. While the pricks are putting out the gods, everyone were calling you the scapegoat, standing in desert praying for the rain. genius kept God. You feel like a rider everybody knows. You're gonna live for your suburban part, as we can bore into real deep seas on a horse. So we start running and you feel like that. But the you will know the other it will rain. While you can see the swathering as it do. So lift your anchor and get in the doom. Lift up your anchor and get. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Spot. Provi tu. No, ho paura. Proviamo insieme? Ma si può? Certo. Uno, due, tre. Prova! Concorso musicale per voci, cover band, cantautori e gruppi. Per adesioni www.123prova.it. Evento promosso da Noi Padova in collaborazione con Associazione Avis, Provincia e Comune di Padova, Il Mattino di Padova. 1, 2, 3, prova! Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti, dal lunedì al venerdì, con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte, su Blu Radio Veneto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Allora, questa è sempre comunque la vostra emittente preferita, si chiama Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino, ma soprattutto quella di Maurizio e soprattutto quella di Angus McCaug, che cercheremo di scoprirlo maggiormente questa sera presentando il suo ultimo lavoro splendido. Tra l'altro io ho avuto modo di ascoltarlo non tantissimo, se devo essere sincero, ti confesso, però mi è piaciuto molto. Vero Maurizio, che è molto certamente bello. Certamente un grande pezzo, soprattutto è un grande pezzo già all'inizio, un'apertura di finestra, come noi usiamo dire qui a Rock Wave Live. Pezzo complesso che inizia molto acustico, dondolante, dolce, però poi si sviluppa in una certa maniera, vero Angus? Esatto, è nato così, d'altro canto, proprio nato in questo modo, è iniziato appunto uno dei primi pezzi che è stato a scrivere così da solo, è iniziato a scrivere sulla chitarra acustica e mentre lo facevo dicevo accidenti, ma qua potrebbe esserci quest'altro. E il coronamento di questo arrangiamento è stato che nel momento in cui registravamo, appunto, il nostro batterista australiano è tornato dall'Australia per un paio di mesi in Italia, l'hanno subito rapito e portato in studio. Lucio Pedrazzi, praticamente. Lucio Pedrazzi, esatto. Citiamo i musicisti che hanno partecipato all'album. Sì, allora, appunto, c'è Lucio Pedrazzi, batterista da Modena e da Sydney, Amico tuo. Amico mio storico. Storico, amico tuo. E poi c'è Marcello Claudio Cassanelli, che è un pianista, anche lui mio amico da anni di Modena, lui molto bravo, molto molto bravo. E soprattutto lui suona altre cose, lui fa molto funk, è stato in Stati Uniti a registrare di recente, è un bel personaggio. E poi c'è Davide Cristiani, che è il fonico, è la persona che ha curato con me gli arrangiamenti, un po' le idee che stanno alla base della È registrazione. fondamentale, fondamentale. È stato fondamentale. E lui ci conosceva da anni, da tanti anni che volevo collaborare con lui. E lui appena ha finito di lavorare al suo nuovo studio in provincia di Modena, si chiama Bombanella Studio a Maranello, Sì, vicino alla Ferrari. c'è la Ferrari. Esatto. Maranello, tutti conoscono Maranello nel mondo, perché c'è la Esatto, Ferrari. è molto comodo come riferimento. Esattamente. E niente. Perché queste sono le persone. E Davide collabora da tanti anni, da alcuni anni, Sì. insieme a Max Miceri, che è un tecnico. Lui abita vicino a Padova, Ah, a però. Terrazza Padovana, e lui è veramente un drago dell'acustica, dell'impiantistica, tutto quello che è audio, hi-fi. Ha avuto occasione di entrare nel suo laboratorio perché abbiamo sfruttato alcune delle sue macchine Certo, per il master. per Devo fare dire certe cose. che sono rimasto assolutamente colpitissimo. E io sono stato colpitissimo insieme ad Alberto all'inizio di questo pezzo, di questo disco tuo. Adesso me lo spieghi un momento, è un pezzo complesso, non semplice, semplice nelle prime note, però poi si Sì. sviluppa in una certa maniera. Ma guarda, niente, la cosa è nata. Io avevo scritto questo giro, no? E iniziale, e poi in realtà mi andava di evolverlo un po', no? Cioè, Di l'ascolto lo svilupparlo, di usato, no? allargarlo. Questo giro comincia. L'ho Certo. un po' scordata, ma dopo la mettiamo a E va posto. bene lo stesso, va bene lo stesso. È sempre live, tutto dal vivo. Anche la scordatura va bene anche nel live. Dopo si mette a Esatto. posto. Live. Live sempre. E niente, allora poi c'è il classico trucchetto, no? Per aprire magari il ritornello, la strofa finale, di alzare di qualche tonalità, cambiare la tonalità, alzare qualche tono il pezzo. E lì, insomma, ho dovuto fare così, insomma, passando da tante scritture del pezzo, ma perché non ci mettiamo questo ponte, perché non ci mettiamo quest'altro. E poi secondo me si accompagnava un po' bene al testo. Adesso io scrivo in inglese, magari dopo. Cioè, c'è questa diatriba, no? Italiano e inglese. Io amo moltissimo anche scrittura in italiano e autore che scrivono in italiano. Però questo progetto l'ho voluto fare in In inglese. inglese, esattamente. Che si E chiama questo progetto? si Il chiama titolo? Anorak. Il disco si chiama Anorak, non l'abbiamo ancora detto. E niente, ci ho messo dentro un po' di cose, questo testo che mi piacevano. C'è questa idea in inglese lo scapegoat, che non è altro che il nostro capro Sì, espiatorio. vero. E piaceva l'idea di questo personaggio, un personaggio di origine biblica, no? Però è un'immagine molto forte, no? Il caprone che viene messo alle porte della città per espiare le colpe della comunità, Certo, no? certo, certo. In realtà quello che non si dice è che il capro non è espiatorio, viene sgozzato e sacrificato. Ma questa è un'altra Questa storia. è un'altra storia. Tutto sommato il capro espiatorio non se la passa così male. Esattamente. Allora l'idea era un po' questa di questa Questa è la scoperta. linea, praticamente. Esatto. Noi della redazione abbiamo scritto nella presentazione che questo pezzo, idealmente con te, raggiunge Iron and Wine e Bonnie Prince Billy, Esatto. soprattutto nel finale, che è molto, non caotico, ma un caotico musicale che sta bene. Sì, ma arrangiato, c'è un po' di. Arrangiato, No, arrangiato. sono due autori che assolutamente sono stati molto importanti. Come dicevo prima, io da un lato ho avuto questa influenza così un po' vintage, no? Quindi Certo. Neil Young, Tim Buckley, Ah, bellissimo, assolutamente bellissimo. Tim Buckley, Nick Drake, che Che poi ho questi anni. citato anch'io in un altro pezzo, la Esatto. traccia numero 3, mi pare. Esatto. E che è un altro autore che in questi anni per fortuna sta venendo riscoperto, Finalmente, perché finalmente. è stata triste la sua vicenda umana, ma assolutamente spettacolare la sua vicenda artistica. Certo, sono d'accordo con te. E poi d'altro canto ci sono questi autori più contemporanei, che che sicuramente hanno avuto molto a che fare, perché sono gli ascolti con questo disco, perché sono gli ascolti che mi hanno traghettato dal lavorare con un gruppo a lavorare da solo. Esatto. E sono appunto Iron and Wine e Bonnie Prince Billy. E poi c'è un autore che purtroppo in Italia non ha venduto tantissimo, nessuno in Italia ha venduto tantissimo, però questo in particolare e ne si è sentito tantissimo, che è Bon Iver. Noi lo conosciamo, io e Alberto, siamo andati a vederlo dal vivo qui a Padova, che è fantastico. Cioè in Australia vendevano supermercati sui cd, per dare l'idea, no? Cioè uno andava al supermercato al megastore, cioè di fianco ai DVD con lo stato dello sport, piuttosto che la PlayStation o il popcorn, una parte, il reparto alimentare, cd Bon Iver. Una mia questione personale: quanto costa un cd in Australia? Ma tendenzialmente l'ha portato all'Italia, costa leggermente, non tanto meno, ma leggermente meno. Costa un 10% in meno. Ah, 10% in meno. Gli strumenti musicali, infatti, questa chitarra l'ho presa in Australia. Costa qualcosina in meno. Ah, sono come niente. Allora. Un 25% in meno, cioè, fatto i miei conti. Hai sentito Agostino? Vediamo tutti in Australia. È un viaggio un po' lungo, però. Ci bisogna ammortizzare, perché poi il viaggio in Inghilterra costa. Esattamente. Cioè, io credo che penalizza l'Australia il fatto del volo lunghissimo. Esatto, infatti, conviene andare giù e stare tanto. Esattamente. Sì, poi c'è 20 ore mi sembra sia di volo, 24. Guarda, penso di averlo mi ha così tanto rincoglionito. Però guarda, tutti quelli che sono stati, anche dei miei amici, parlo, quando ritornano, tutti hanno lasciato il cuore, tutti vorrebbero ritornare, perché dicono che è un paesaggio splendido. Unisce un po' certe cose, cioè noi esageriamo anche, però abbiamo questo amore, no, per l'Inghilterra, tutto quello che è così anglosassone, ci piace molto. Con la musica non possiamo fare a meno di farlo, perché praticamente, quantomeno sotto il profilo commerciale della diffusione, hanno la marcia in più. Certo. Però unisce a questa caratteristica, cioè voi prendete Londra, toglieteci la nebbia, mettete una natura incredibile dappertutto, metteteci un sole fantastico, un inverno con 20 gradi, ecco, questa è la strada. Questa è l'Australia. Bene, Agostino, come sempre, il live è il live, per forza. Sì. Cosa cominciamo, Angus? Noi vogliamo il live. Allora, cominciamo questo pezzo, che si chiama On the Bank. Bene. E che è stato il pezzo su cui in realtà ci siamo sbizzarriti un po' di più nelle registrazioni, infatti adesso io ve lo faccio così secco secco, ma nel disco c'è un sacco di roba. Beh, qua lo fai chiaramente chitarra e armonica. No, qua c'è solo chitarra. Solo chitarra, però ci sarà anche l'armonica più tardi. Più avanti ci sarà anche l'armonica. Prendiamo una cordatina. Tutto dal vivo, tutto dal vivo. Anche gli accordi che sentite lui li sta facendo dal vivo, vero? Certamente. Il live è live. Allora, questa è Blue Radio Band, intanto io ve lo ricordo mentre Angus accorda la sua chitarra per questa canzone. Vi ricordo i nostri numeri telefonici, sono 049-875-6423 per raggiungerci qui in studio. Se invece volete mandare qualche sms a questo cantautore splendido, vi ricordo il 346-23-20-033. Vi ricordo anche lo streaming audio andando nella home page del nostro sito, cioè www.blueradioband.it. c'è un rettangolino rosa con scritto stream, e sotto c'è una freccia nera sulla sinistra, cliccando lì si sente in diretta la radio 24 ore su 24. Sei ok, Angus? Sono ok, vi chiedo solo un goccio di cuffia in più. Un goccio di cuffia in più e noi ti facciamo sentire. Ci sei? Ok. I'm everywhere I want to find a while, but staying on the river's bank, thought it wasn't mine. It seems I'm always trying to find a way that's wrong to get where it ends the day. So if you want to live till the next bus stop, I can tell you the story of the farm house ghost. A supper started with a spoonful in each hand, a good day in force with a knife right in the back. Won't you tell me what I've done? Won't you help me write this song when I'm coming home to stay? Do you kindly take my hand and draw the line, 'cause I can't tell where these footprints just belong. The light is looking for a better wind of pain. She's asking the mattress to burn their box away. While wind is rolling down the corridor, you feel your neck icing and your lips are getting cold. Won't you tell me what I've done? Won't you help me write a song? When I'm coming home, do you stay? Won't you kindly take my hand and draw the line, 'cause I can't tell where these footprints just belong. So come on, runner, raise your lamp. Hello, lamb. Raise your lamp, little lamb, little lamb. I know anything we've done, but it beats so hard, it beats so slow. I know anything I've been told about a story, so what about the plot? I was praying for a shirt that I spent on the banks, but my legs were numb and feet so far from the bed. So I shake my head to the place it was before, and the road was aluminium and the moon was darkness thumb. Won't you tell me what I've done? Won't you help me write a song? I'm coming home, do you stay? Won't you kindly take my hand and draw the line, 'cause I can't tell where these footprints just belong. Won't you tell me what I've done? Won't you help me write a song? When I'm coming home, do you stay? Won't you kindly take my hand and draw the line, 'cause I can't tell on the runner, raise your land. Hello, land, hello, land. So come on, the runner, raise your land. Hello, land, hello, land. So come on, the runner, raise your land. Possiamo dire, il pezzo è molto bello e una cosa interessante che sì. ho notato, adesso ti faccio sentire, vediamo se sei d'accordo. Sì. Hai cambiato nel corso d'opera il pezzo, cioè ti sei fermato, hai ripreso, ti sei fermato, hai ripreso. Sì, questa è un po' tempo per accompagnare i brani, anche perché i miei brani sono abbastanza lunghi. Mm. Bello che siano lunghi. Come poi però in realtà spesso i brani di questi autori sono più lunghi, perché... cioè, parliamo di, sparo un nome così, Bob Dylan. Sì. Bob Dylan faceva dei pezzi da 6-7 minuti, sì, che esatto. dischi tranquillamente. Esattamente, sì. E dal vivo, quando magari non è che puoi sfruttare tante cose, insomma, poi anche bello la dinamica. Spesso asciugare, suonare basso, suonare meno, aiuta anche molto il pubblico ad avvicinarsi. Questa cosa anche dal vivo funziona, è bella. Quando la gente sente che stai... che rumore si sta abbassando? Cosa succede? Cosa sta succedendo? Sta smettendo? Ah no, allora lo ascolto. Funziona di solito dal vivo. E questi sono 12 pezzi nell'album. Sì. Noi nella redazione abbiamo scritto. Cioè, l'elemento acustico gioca però con una ricerca, una sottile sperimentazione. L'acustico sì, però sperimenti. Quanti chitarre suoni nel disco? Su? Allora, principalmente questa che ho qua questa sera. Sì. Che suona in quasi tutti i brani. Mm. E poi ho un'altra chitarra acustica simile, con cui l'ho usata semplicemente perché suona un po' diversa, niente di certo, incredibile. Certo. Poi in non tante cose, per dire la verità, c'è la mia vecchia elettrica che è sempre lì, non si muove. È sempre a portata di mano, e che fa qualche arrangiamento doppio, qualche acustica. Mm. E poi c'è qualche passaggio di lap steel. Ah, ecco, ok. Che sto un po' cercando di imparare, che è uno strumento molto bello, che mi piace molto, però è un po' difficile. Per me sì. Un po' complesso. Sì. Questa chiaramente stasera è una dimensione prettamente acustica. Sì. Però l'acusticità di questo pezzo sì. aveva una caratteristica. Era veloce e poi subito lento. Cioè, hai cambiato. I batteristi dicono stop and go. Cioè, praticamente hai fatto una certa ritmo e poi ti sei fermato, esatto. E poi hai ripreso. Esatto, no, questa cosa secondo me aiuta. Poi devo dire che. Apro una parentesi su un altro personaggio che mi ha molto influenzato. Che è Tiziano Sgarbi in arte Bob Korn. Ah, è venuta qua tempo fa Bob Korn, è venuto qua più di una lui volta. Lui assolutamente, lui sta dall'altra parte della provincia di Modena. Sì, vero. E questa cosa c'entra con questo brano che ho appena fatto, che si chiama On the Bank, sulla riva. Perché io ho questa abitudine, no? Oggi sono venuto a Padova, ho fatto solo un pezzettino di autostrada tangenziale tra Rovigo e qua. Del resto, io ho questa abitudine di fare le gran statali. Ah, quindi ho proprio stradelle di campagna. E giusto oggi sono passato vicino tra Fine dell'Emilia e Mirandola, dove abita lui. Mm. E lui, secondo me, è un mago di questo tipo di atmosfera. Sì, ho capito. Cioè, non mi voglio neanche paragonare, perché poi lui, insomma. Lui sono tanti anni che gira, che suona, e secondo me insomma. Angus, io voglio farti una domanda. Dimmi, perché parlavi certo. adesso di viaggi nelle strade non statali, diciamo, non battute, ma perché cerchi questa strada? Perché ti ispira? Ti dà modo di trovare qualche ispirazione per le tue canzoni, per la tua musica? Ma guarda, in generale devo dire che cioè, la musica è un po' la conseguenza di questa cosa. Certo. Cioè, On the Bank, tra l'altro, è stato scritto in un posto in cui oggi mi sono approfittato che non ero a lavorare, per cui me lo sono preso con calma per venire qua. E mi sono fermato in questo punto particolare che è Stellata, questa frazioncina sì. di Bondeno, vicino proprio dove sfocia il Panaro, che è il fiume che passa da Vignola, la mia cittadina. Certo. Sfocia nel Po, c'è questo argine. Io questa negli anni mi sono reso conto, ho preso questa abitudine terribile per la gente che è macchina con me, di dire sempre no, ma non torniamo a casa per autostrada, no dai, fermiamoci qua, c'è un ristorante, c'è un posto carino da vedere, e anche da solo, soprattutto suonando di notte quando torno a casa dai concerti, ho preso questa abitudine di, mi viene proprio naturale, cioè io evito i caselli come la peste. Ah, ho capito. Ho capito. E poi mi rendo conto che questo rimuginare, guidarmi in questa strada è una cosa che mi fa scrivere, certo. e finisce nei pezzi spesso. Bene. Dunque, sono le 22:52. Cosa facciamo? Sentiamo un altro. Lo sai cosa dobbiamo fare. Facciamo un altro pezzo live, dai. Un altro pezzo live. Ok, allora facciamo cosa di un attimino più. Sì, dai, che traccia hai scelto da fare live adesso? Allora, questa traccia qua è Something More to Say. Ed è un brano che abbiamo. Registrato. Scusate, mi sono incastrato il portarmonica nel maglione. È tutto dal vivo, lo stavo vedendo che si è incastrato nel maglione. Fantastico. Madonna, eccoci qua. No, non fa suonare. Cioè, intanto raccontiamo. Aiuto. Ma mai mettersi in maglione di lana grossa? Ah, ecco. Quando uno deve suonare l'armonica. Tranquillo. L'anno scorso avevo la barbara tremendo, cioè, mi finiva dentro. Però ti vedo bene con la barba. Ma guarda, se vai su internet trovi ancora delle foto, altro che Iron and Wine, cioè roba. Sì, ecco. Però era veramente scomodo, mentre che suonavo l'armonica era una tragedia, quando mi toglievo il porta armonica c'era sempre un po' di barba in mezzo, era una sofferenza. Questo pezzo l'abbiamo registrato a Sydney, in sala prove, dove Lucio provava con i suoi gruppi, suonava con due gruppi. Ma era più di uno lui? Sì, lui ha suonato per tanto tempo con questo gruppo che si chiama Faker, sì. e loro oggi insomma contratto con la EMI, quindi e, un gruppo abbastanza importante, e, insomma se la passano bene, contato, E l'altro gruppo è un gruppo, si chiamano Made Away, che è un gruppo assolutamente di base con cui fa molte serate a Sydney City. Ok. Come si chiama la canzone? Something More to Say. Just humming in O2. So if you tell me tragedy, I can guess it's strategy. While you hang so long on your cap, your lips sag so tragically, but your nose is much more sincere. So we should something more to say to make me spend the whole day thinking about your face as I wish you well. You say you've been since Matter 2. So turn trees and all that things don't go where you could have said they go before. You say you understood all of these points of view, but while you're throwing up your hair, I can see you here as much more wear. So we should something more to say. You made me spend the whole day thinking about your face as I wish you well. Something more to say, cause I'm sure I understand that creeping smile on your face is to show I to shine. I wish you well. Something more to say, cause I'm sure I understand that creeping smile on your face is to show I shine. Abbastanza energica questa qua, giustamente molto ritmo, ci un po' dopo. Con un po' un giretto di blues, c'era anche un pezzettino, un qualche un po' accenno, di blues, sì. E poi anche un pinalino un po' punk, insomma, leggermente vivace, ma serve ogni tanto, serve, insomma, serve, assolutamente serve, una dimensione acustica, ma sei dato da fare notevolmente in questa dimensione, in questo pezzo che hai dato a in pasto, come si dice, ai nostri ascoltatori. Ma sai, anche dal vivo queste cose come sempre aiutano molto, cioè è importante anche a parte che mi piace, insomma, a me stesso piace, cioè mi piacciono i pezzi acustici più acustici, però giustamente anche aprire, insomma, qualcosa di un po', perché poi sai, il folk in realtà è poi tante cose, cioè non è solo il folk, parte dal blues e dopo si sviluppa con il rock, ma esatto, c'è anche il via andare, c'è anche nel folk. E poi ho sì, sei riuscito ad incidere questo album, hai trovato un'etichetta, meno male ti ha dato una mano, insomma, sì. Ti ha fatto incidere, ecco, ti ha messo il marchio praticamente. Sì, diciamo che la cosa che abbiamo fatto, l'etichetta intanto è Pippola Music, sì, il marchio è quello di Picic, che sono le loro edizioni, management, ufficio stampa, e diciamo che come tanti gruppi, questo è un momento chiaramente di difficoltà, molta difficoltà atroce, soprattutto quello che riguarda la produzione musicale. E come stanno facendo tanti progetti adesso, l'idea è stata: tu ti produci, fai il tuo disco, esatto, poi collaboriamo sulla promozione, chiaro, sul ufficio stampa. È così. Questo chiaramente ti dà molta libertà per lavorare come vuoi, insomma, certo. E questo è bello. E giustamente chi ci mette poi il lavoro di ufficio stampa, di management, queste cose qua, di promozione, giustamente poi non ha messo il capitale incredibile. No, no. Capitali di vestita, esatto. Esatto, questo per dire i soldoni, come il discorso, ma non è solo il tuo, tantissima gente che è venuto qua, Agostino è testimone, è il solito discorso, cioè loro danno i loro capitali, incidono, dopo l'etichetta fa l'ufficio stampa, fa questo. No, ma la cosa importante è trovare il modo migliore per far fare la strada quello che si fa, è chiaro, è inutile fare cose che poi rimangono ingessate. La cosa importante è grande chiaramente stima, la collaborazione ed elasticità per arrivare, insomma, uno ci deve credere, esatto, perché sennò è sempre più difficile e deve avere un buon prodotto comunque, eh beh, chiaro, insomma, ci si prova, cioè. Altrimenti sai, non è che non si fa strada, insomma. Esatto. Già lo si fa. Adesso sono le 23, di solito alle 23 c'è un piccolo giochino, oddio aiuto, no, è un giochino semplice, niente di straordinario. Vai. Facciamo tre dischi che tu vorresti portare su un'isola deserta. Tre dischi che vorrei portare su un'isola deserta, allora a tuo piacimento, chiaramente. Hai citato già i tuoi momenti tutelari musicalmente parlando, però, ma guarda, allora, visto che l'isola deserta è una cosa impegnativa, io torno alle mie origini più infantili, e non adesso devo pensare quale disco, ma sicuramente, ecco, forse il White Album dei Beatles. White Album, bene. È passato dagli 8 agli 11 anni, non facevo altro che ascoltare i Beatles la mattina alla però sera. Eri molto evoluto, sì, il mio inglese era tremendo, cioè, mi hanno regalato una cassettina, la prima delle compilation rosse, sì, quella prima, quando un giorno mi ero beccato non so quale trasmissione televisiva, avevo passato un pomeriggio intero, ma due ore seduto su una sedia in casa di mia nonna, perché i miei non c'erano, giù dalla nonna, a cantare Yesterday, con le parole in inglese inventate, una cosa atroce. Però per questo direi White Album, ecco, perché forse non lo so, cioè, ci sono particolarmente affezionato. White Album racchiude tante cose, esatto. E poi di dischi più legati al folk rock di adesso, un disco assolutamente fantastico che mi porterei dietro è il primo omonimo album di Fleet Foxes. Ah, bellissimo, quello è bellissimo. Quello è proprio il folk, non dico ruspante, il folk particolare. Con qualcosa unico, decisamente. Esatto. Poi non si sono più ripetuti in modo di, cioè, disco dopo, almeno non è così, insomma. Ma lì c'era qualcosa di magico, di barocco, sì, di tutto. Una cosa esattamente veramente forte. Sì, sì, sì. Poi, accidenti, il terzo disco è veramente impegnativo. Il terzo disco è veramente impegnativo. Potrei fare veramente un salto, perché giustamente con solo tre dischi bisogna un po', sì, beh, un po' variare. Volutamente tre dischi per poter racchiudere le cose subito. Guarda, forse importerei, parliamo sulla Croce Rossa, okay. Potrei Rimmel di De Gregori. Ah, vedi che salto hai fatto. Un grande salto. Il dilaniano più convinto italiano che De Gregori. Esatto, cioè c'è sempre poi un link, un collegamento. Però, sempre Dylan, certamente. Uno dei più bei dischi della musica italiana. Penso di sì. Sì. Rimmel, sì. Sì. Da Pablo a Fiorellino. Io in realtà non l'ho ascoltato da adulto, insomma. Adulto. Non è un mio ascolto di quelli adolescenziali. Però quando l'ho incontrato ho detto, accidenti, però. Perché non è stato uno degli ascolti? Beh, lui veniva dal disco di Alice, no? Dove c'era Alice guarda i gatti, esatto, quella canzone. E ha fatto questo disco molto bello a quel tempo. Io mi ricordo che anche Alberto lo sa, me lo mettevamo veramente tantissimo nelle nostre emittenti. Perché proprio spopolava, ma anche proprio per la qualità e per la bellezza delle canzoni che sono veramente. Esatto. Piano Bar. Io non cioè, chiaramente lo conoscevo, però non. non l'avevo mai veramente ascoltato, e quando ho incontrato questo, anche altri, ma questo disco in particolare ti ha colpito? Anche nello scrivere, c'è cioè una, una scrittura che, per carità, questa è una cosa che devo mettere, è stato benvenuto a lanciare un paio di volte, ho sentito fare questo discorso, e poi incontrando, io sono un po' un diesel, sono una lenta fermentazione, ci metto un po' ad accendermi, e se da un lato De André è un grandissimo autore, e però forse c'è qualcosa di, non dico di più affascinante, ma di diversamente affascinante e di potentissimo anche in una scrittura come quella di De Gregori, che dove non c'è, non c'è la via del campo, non c'è sempre il letame da dove per forza nascono i fiori, mentre cioè per cui tu nel brutto c'è sempre il bello, e nel bello c'è sempre il brutto, no? Adesso non voglio sintetizzare di andare così, no? Però c'è questa scrittura, certo, quasi un po' più psichedelica, quasi più sognante, e poi non è mica tanto semplice i testi di Gregori, più di strada, più di più osservativi di Gregori, che è assolutamente affascinante. E poi dobbiamo concludere parlando di Gregori. Lui ha cominciato a suonare al Fox Studio, il primo disco è Theorios Campus, scritto assieme a suonato assieme a De Gregori, a Venditti praticamente, De Gregori, Venditti, e proprio il DNA di Dylan c'era già da Theorios Campus. Beh, loro hanno fatto 30-40 anni fa la cosa che sto 40 anni fa la cosa che il mio piccolo sta facendo. Stai facendo te adesso. La lingua è diversa, ma certo, l'idea, il percorso è simile, è sempre insomma. Quello, sì. Ok, dimmi. No, io voglio sentire lui. Beh, 23:05:06 quasi, vai Angus, cosa ci fai sentire adesso? Esatto. E niente, adesso, visto che abbiamo parlato di autori di qualche tempo fa, e tu dicevi prima Nick Drake, che è meraviglioso. Noi abbiamo fatto ascoltare un sacco di volte a Nick Drake, anche nei tempi in cui, adesso si fa sentire spesso e volentieri, ma noi all'inizio, quando usciva Pink Moon, la radio c'era, Madonna, ancora, c'era già, aveva più cominciato bello, i suoi primi passi, io, sì. E Pink Moon l'abbiamo fatto sentire un sacco di volte. E, ma guarda, io non amo dire che mi ispiro a Nick Drake, sicuramente l'ho ascoltato, adesso è anche un po' inflazionato, no? Per cui l'hai scritto tu che questo pezzo ti ricordava Nick Drake, sì, mi fa molto piacere, perché questo pezzo è Night Drifting. Seventh door, nothing less, nothing more. I really cannot say. Radio's tuned out above the plot, so next station won't be worse. Where are you, goddess of the waves? Can I stand by you? Can I stand? Can I stand by? Can I stand? Drifting lamps one by one, but you take is what you've lost. I really cannot say. Sign persuading on the road, drops gliding from the shore. All these windows to my brain. That's where I ran over more than a ghost. Well, says more than gasoline. Got his voice to pull me on. So tell me, goddess of the waves, can I stand by you? Can I stand? Can I stand by you? Can I stand? Can I stand by you? Can I stand by you? Can I stand? Well, I'd sparkling on the road, the basket slipped on the floor like medicine. Portraits, hairstrays, your hands. So morning comes, this got a hand. Man got thrown by the fate, but I'm coming through in waves. Eccoci qua, posso dire una cosa, Angus? Ti dico quello che penso io. Pezzo meraviglioso. Qui l'hai fatto meno drecchiano, l'hai fatto più Angus dal vivo. Il disco era più drecchiano nel senso positivo del termine, però. Ma sai, già c'è l'armonica, che comunque è un elemento che da Drake sposta un po'. E poi... poi è stato discorso, insomma, dal vivo mi lascio un po' andare bene, un po' andare. Mi pare giusto che sia così. Poi, ricordiamo una cosa, molti ascoltatori forse non lo sanno o qualcuno lo sa, gli accordi che usava Drake erano difficilissimi, assolutamente erano difficilissimi, assolutamente. Sembravano semplici, invece non erano per niente, è vero, una cosa, per cui lui creava degli accordi particolari, era molto molto difficile. Io ho tirato giù alcuni pezzi suoi qualche volta, so, un po' perché mi piacevano tremendamente alcune cose, insomma, ma come fa a far suonare queste cose qua, perché per certe cose è un discorso analogo ai Beatles, tu ascolti e dici robetta pop, no, era. Poi dici proprio, no, un momento, ascoltiamo, non è proprio così, ma questa cosa bellissima dove viene fuori, e Nick Drake aveva, era un genio, era veramente incredibile. Io ogni tanto scordo la chitarra, faccio alcune robe, ma non arrivo non arrivo alla sua fantasia, alla sua capacità, che era qualcosa di, ricordo di aver sentito un chitarrista, cioè uno che se ne intendeva, cioè che suonava sempre, era proprio un musicista al 100%, come te chiaramente, però proprio lui insegnava la chitarra, sì. Diceva che soprattutto il secondo album di Dick è molto molto difficile, quello orchestrale, sì. È decisamente difficilissimo, sono dei brani addirittura con delle accordature, se non sbaglio, a The Chime of the City Clock, sì. Dovrebbe essere una cosa tipo Do, si, ecco, una corda del genere, con un basso bassissimo, e sì, una corda delle posizioni, dici, ma... perché è arrivato a questo? Ma come è riuscito ad arrivare a questo? Ma guarda, è fantastico. Poi purtroppo lui sicuramente passava tantissime ore, sì, a provare queste cose, e purtroppo non è mai riuscito a fare, ha fatto qualche live, ma Con Joe Boyd, soprattutto, che si è messo le mani nei capelli, perché a metà tournée lui chiama e dice non ce la faccio a fronte del pubblico, torno a casa. Sì, esattamente, lui era così, era verissimo questo. 23:13 stiamo ascoltando piacevolmente la musica di Angus McHawk, che ci presenta questo disco nuovo acustico suo, praticamente suo. Sì. Acustico qua nel disco non è prettamente acustico, ma un acustico un po' vivace, un po' con qualche tendenza giustamente all'elettrico, qualche tendenza al blues, qualche tendenza al rock. E la tua, è la tua nuova, il tuo nuovo percorso, Angus. Mio nuovo corso. Esattamente. Una cosa che ha influito molto nel disco è stato, e questo è stato molto importante, il lavoro con Davide Cristiani, che è il fonico, ma non, non è soltanto un fonico. Non è soltanto un fonico. Lui ha un'esperienza, lui ha 28 anni, però ha registrato. Lui ha un po' traghettato l'inizio dei allora Franklin Delano, poi diventati Blackie Heath, che sono venuti qua anche loro, adesso hanno cambiato, esatto, non hanno più quel nome, erano bravissimi. E quando la Nip Records ha deciso, insomma, di investire qualcosa su di loro per produrre, non mi ricordo se è il loro terzo album, sì, non sono sicuro, e loro sono stati a Chicago perché volevano lavorare con Brian Deck, che è produttore, è musicista, produttore dei Califone, sì, e poi soprattutto per quanto riguarda me, insomma, è produttore di tante delle cose di Aaron & Wine. Certo. E per cui Davide ha affascinato questo personaggio, lavorando con lui ha un po' capito alcune tecniche, alcuni segreti. E la cosa affascinante è che Brian Deck è un percussionista. E uno dice percussionista, sì, ma cioè qua parliamo di chitarre, di armoniche, di robe, no, di banjo, di... E è un professionista, infatti, se ascoltando i dischi di Aaron & Wine, e sicuramente adesso l'ultimo è ancora fresco per cui non mi lancio in commenti, però The Shepherd's Dog molto, e poi molto bello. Il doppio con Around the Well, con il lavoro in studio, le tracce più grezze, lì si sente forse ancora di più. Ci sono questi pezzi acustici in cui effettivamente c'è la chitarra, c'è la voce, però poi c'è tutta un'atmosfera che è fatta effettivamente su un'ascolta da... è uno xilofono che fa due note proprio ritmiche dilatate sullo sfondo, uno shaker, un tamburello, tante piccole cose che però arrangiate in modo meno usuale, uno non le sente neanche le percussioni, però sente una cosa particolare. Possiamo dire che Aaron White è fuori dal coro assolutamente su certe cose. Sì, il folk acustico, d'accordo, il songwriter, però è molto fuori dal coro. Forse nell'ultimo disco no, è un po' ritornato dentro il coro, ma i precedenti era proprio fuori dal coro. Ma sapete, dopo che abbiamo preso, penso che per Twilight, alcune sue canzoni così, forse ho detto, ma però se io faccio il personaggio, non è più così male. No, ma sta vendendo abbastanza bene negli Stati Uniti. Sì, il mercato finalmente lo ha scoperto, giustamente. Straordinario. Personaggio anche lui. Certo. Ti vuoi riposare o facciamo un altro pezzo live? Lo facciamo riposare. Facciamo riposare con un pezzo. Vuoi suonare ancora dal disco? Ma guarda, se fate... Ma io metterei sul pezzo dal disco, così intanto lo sposto, capo tasto, riaccordo e dopo siamo pronti. Che traccia hai scelto, ti ricordi? Il pezzo è Crockery in the Cupboard, che vuol dire stoviglie nella credenza. E questo l'ho scritto in un altro viaggio, andando a trovare l'altro ex Angus McCaug a Parigi, per cui scritto sulla via di Parigi. Bene, bene, l'ascoltiamo. This maybe I'm wrong, but it feels so right. This is just fine. But a test of time. 'Cause I've gone so fast, I still won't be the first. That's to get control. This is warm and cold. was feeling so much better, so much pain. I won't hope if you'll never come. This is calling on. This is Waterloo. This is Shalai Dam. While the ring's on fire, this is Cold Liar. It's supermarket driver. This is almost gather, colder than your time. And then getting into the crowd, Halleki was there, selling broken stereo made. David plays at night, world buses farther ways, two lights of empty glasses faces. Better, so much pain. Radio Rock Wave, l'onda del rock. 23 passate da 22 minuti, Blu Radio Veneto con voi questa sera con Angus McCaug che sta presentando il suo ultimo lavoro, il suo ultimo disco appena uscito, se non sbaglio, è uscito da quanto? Allora, la data ufficiale è il primo di aprile. Il primo di aprile, quindi è recentissimo. A breve sarà disponibile anche sul sito di Audio Globe per chi lo vuole comprare online. Spero dalla prossima settimana, più o meno così. E se tutto va bene dovrebbe arrivare anche iTunes, per cui io lo dico, se sa mai che radio qualcuno ascolti. Tra un po' di, penso, un mesetto dovrebbe trovarsi anche su iTunes. E già che ci siamo, Angus, sì, ricordiamo un po' i tuoi dati, cioè siti. Dunque, il sito è www.angusmccog.it, scritto Angus, come si dice, mcog.it. Sono anche su Facebook, per cui insomma, come ormai tutti, se uno digita, cerca su Facebook Angus McCog, mi trova. E basta, insomma, meno male sono i miei. Online sul mio sito c'è qualche brano in streaming per chi se lo vuole ascoltare, per cui insomma scrivetemi, chiamatemi, insomma contattatemi molto volentieri, io rispondo. Ok, quindi ci possiamo disturbare. Sì, in senso positivo del termine. E hai qualche berlume, qualche concerto che hai già intenzione di fare, eccetera? Allora, intanto domani sera sarò qui a Padova. Beh, chiaramente sì. Alla Mela di Newton. E poi sono a maggio, fondamentalmente ho molti concerti tra Modena e Bologna. Ah, ok. Perché insomma ho un po' di amici che quando mi sto uscire il disco, allora viene da noi, per cui ho il mese asfaltato pieno di concerti. Una, cosa molto positiva. In locali di amici. E poi l'estate sarò di nuovo un po' in giro per l'Italia, per cui adesso sono ancora da confermare, però ho un paio di date lungo la Riviera Adriatica che dovrebbero aumentare un po' di più tra Romagna e Marche. E nell'estate qualche festival, quindi ci sono i concerti da fare. Esatto. E poi se tutto va bene stiamo con un altro ragazzo di Modena, lui si chiama in arte Ed, anche lui fa folk acustico. Stiamo chiudendo alcune date a New York per settembre, inizio settembre, per cui insomma. Beh, bella cosa, una trasvolata oceanica. Esatto, esattamente verso New York. Ma dal vivo suoni da solo o sempre con questo ragazzo? E allora, tendenzialmente dal vivo suono quasi sempre da solo. Poi, questa è proprio una novità dell'ultima settimana, dopo l'uscita del disco sto facendo quelle serate con un altro ragazzo che suona il violoncello e il banjo. Ah sì, esatto, che dove che... Che purtroppo lui purtroppo... lavora spesso con il weekend, per esattamente, cui seguire questa trasferta. E con lui insomma è una dimensione molto bella, perché il violoncello ha un certo fascino. Assolutamente. Poi decisamente. Ti puoi lasciare andare a suonarci sopra, intanto il pezzo vai. È vero. Sei molto più... Poi si addice molto alla musica tua, visto il violoncello è uno strumento che è stato molto usato, è stato da questi cantautori atipici, possiamo dire così. Esatto. E poi in alcuni momenti in cui è stato in Italia, perché è rientrato per qualche settimana in questo inverno sotto Natale, ho fatto qualche data anche con Lucio, col batterista, che dal vivo si porta dietro una cassa, qualche sonaglio e un rullantino con le spazzole, e sotto questa musica qua, tra l'altro il pezzo che abbiamo appena sentito c'è esattamente questo. Ecco, adesso parliamo, parliamo un momento di questo pezzo, che è molto interessante, sia nel finale sia nell'insieme del pezzo. Come l'hai costruito l'idea? Perché questo abbiamo sentito non è un pezzo prettamente acustico, un pezzo acustico sì. Ma con una certa fisionomia, con un certo sviluppo poi. Ma guarda Renato, questo è come un pezzo totalmente acustico. E c'era questo, adesso lo faccio una tonalità diversa, però sì. questo giro qua. Sul quale si è basato tutto il pezzo. Ok. E poi era affascinante, mi piaceva l'idea di... Cioè lo sentivo, cosa che lo muoveva un po' di più. E allora anche qua, lavorando con Lucio, abbiamo deciso di metterci un po' questa ritmica. Che desse un po' questo sapore di un rumore di fondo di una musica di fondo che accompagnasse un po'. Perché c'è una batteria, ma in realtà è poi molto... È un canto molto... La parola chiaramente nella diretta mi viene... mi manca, però accompagna molto, no? È una canzone molto... Non è Nina Nanna, ecco, però... Comunque... Una ballad, non dico... Non proprio una ballad, è una canzone che ti accompagna, ecco. Esatto. E secondo me sta bene anche qua un po' con il tema della canzone che è il bere. Ecco. La canzone parla del bere, per cui il pazzo dice, insomma... Questo è per dare un senso al tempo, questo è per prendere controllo della situazione, questo è perché mi devi chiamare, questo è perché so che non mi chiamerai, questo mi sentivo così radicale, mi sentivo così eccitato, e poi alla fine non è stato niente di tutto, e la mattina mi sveglio nel mio letto sbattuto come se fossi una stoviglia lanciata in mezzo alle altre. Ho capito. Benissimo, Agostino, la cosa fondamentale di questo programma è suonare, quindi sono 23:28, abbiamo ancora tempo, ben più di mezz'ora per finire il programma. Adesso Angus sta sistemando l'armonica. E cosa ci fai sentire, Angus, adesso? Questo è il pezzo che mi dicevi che ti aveva un po' più colpito tra gli altri, si chiama Ribbon Instead. Ah, che ha colpito anche il nostro direttore artistico, Alberto, che... Qua ci siamo sbizzarriti con un po' di ritmiche, un po' di cose sotto per colorarlo. Benissimo. Lo sentiamo allora. Rockwave, l'onda del rock. Monday morning, is running up the stairs. Her hair's crimson like rain as she walks to the door. Did you come over just to notice handle this cold? Then last your hands on the window of pain, still stand telling farewell and you're already gone. Goodbye, hand to your root was everything but love. So you see, temptations overcome us all. And in the meanwhile, you were kicking around with your fuss. And you know it should be fine. Acting like time, evening's black has got you misunderstood. Words are like when so many won't fill the cup. Thomas told me that silence now is enough. La diretta, bellissima. Questa è una canzone molto bella. Da... Grazie. Prego. Blu Radio Veneto con Angus McCaug, questa è la vostra emittente. State ascoltando il disco che è uscito, dicevo prima, in aprile, il primo di aprile. E lui ci sta scaldando, come si può dire, l'atmosfera con queste note splendide assieme alla sua armonica e non solamente, ma anche la chitarra. E si chiama appunto Angus McCaug. Questo pezzo poteva anche essere, secondo noi, Alberto qui vicino, un singolo potenziale, cosa dici? Ma guarda, questo pezzo è un pezzo che, dire il vero, quando è partito, io che sono 12 figli, non posso dire quale è il mio preferito. Però questo aveva però un certo... di quelli, diciamo che questo era quello che, anche se non si laureava, era... No, ho capito. Però poi invece lavorandoci sopra... sarà che aveva già un po' questa energia che ci ha un po' preso la mano, sarà che la registrazione è venuto, c'è proprio venuto un po' quel sorriso, no? C'è tanti pezzi hanno un'atmosfera anche più un po' più macerata, più cupa, più invernale. Questo pezzo invece si è venuto un po' proprio con la sorriso sulle labbra, con è molto solare questo pezzo. Non forse dico di più solare del, sì, del penso disco. Di sì, non dico californiano ma quasi, dai. E ci siamo lasciati andare questa cosa qua di aggiungere un po' due cose. Nel disco c'è sotto il metronomo che continua ad andare, cioè a un certo punto ci sono due timpani che si rispondono. Le idee sono state tue di questi, ma, questi giochi? Queste per lo più sì. Ah, okay. Più sì. Poi però cioè, tutto in realtà è nato nella forma che ha lavorato con Davide. Mm. Cioè, è stato lui che ci ha detto, ma perché per esempio non facciamo che uno su un modo e uno in quell'altro? E questa è una scelta diciamo di fonica che però in realtà poi diventa anche arrangiamento perché ti cambia veramente l'ascolto del pezzo. E su questo lavoro insomma è data... Poi che cosa casuale, si sente un suonaglio perché ce l'avevamo scordato sulla sedia su cui avevamo appoggiato il timpano, suonando il timpano, noi mentre lo suonavamo non ci accorgevamo ma rientrava anche il suonaglio che vibrava. Poi il disco, ah ma è bello, ci piace, teniamolo. Vedi così, e lì, cioè, adesso per ribadire ancora una volta, sì. Davide, l'importanza di Davide perché aveva una certa autonomia, aveva già sentito, aveva già organizzato certe cose e poi ha sviluppato con te praticamente. Ma sì, in realtà lui i brani li aveva ascoltati la prima volta in versione demo un po' volante a marzo dell'anno scorso. Mm. Tra l'altro quando anche Alberto poi mi aveva carpito la prima volta. E poi lì, insomma, subito dovevamo registrare subito, dovevamo fare mille cose, poi invece abbiamo lasciato un po' decantare il progetto, lui si è ascoltato le cose, non tutto subito per la verità, perché chiaramente lui seguiva anche altri gruppi, faceva altre registrazioni, non è che vivesse per me. Però, insomma, da un lato lui si è ascoltato le cose e le ha lasciate decantare. Dall'altro io di lui avevo una grandissima stima, era tanto appunto, come dicevo prima, che volevo lavorare con lui, più che mi sono lasciato andare nelle sue braccia. E molte cose sono nate poi molto spontaneamente passando da lui a questa casa di campagna bellissima proprio in mezzo dove comincia, dove finisce la pianura, no? Iniziano un po' gli Appennini in questo piccolo pezzo di prateria, diciamo, e tra due colline. Noi stavamo lì la sera quest'estate a dire, ma qua cosa facciamo, qua cosa ci mettiamo, dai, questa facciamola domani che c'è più idee, no, questa facciamola adesso che questa cosa potrebbe essere così. Ho capito. In questo modo migliore. E nei 12 pezzi che tu hai scritto, che hai proposto nell'album, c'erano dei pezzi che avevi già scritto, proposto, quando eri ancora con la band oppure no? No, ci sono alcuni pezzi che si sono sovrapposti. Mm. A dire il vero no, c'è un pezzo sì. Ah, avevi già l'idea. C'è un pezzo, che in realtà è più che un brano, è un intermezzo. Ah, ho capito. Che qua si chiama, il disco si chiama Whistle on the Washing Line. Mm. The washing line, come lo devo leggere, l'ho scritto, ma sono sempre confuso. Washing line. Cioè, fischio sul fiume. Quello era già del periodo con la band. Sì, quello era un intermezzo che facevamo, che avevamo già registrato. Poi qua ci abbiamo giocato, appunto, di questa sera, questo pezzo strumentale solo con un fischio, e abbiamo aggiunto tanti piccoli rumori che entrano, tanti piccoli loop di percussioni, di cose che fanno un po'. Atmosfera, insomma. Una cosa che dobbiamo fare è citare la copertina bellissima, sì. del disco, la costruzione, la grafica. Il grafico è stato molto bravo. Cito molto volentieri tre persone che sono due grafici. Uno è Luca Lattuga, lui è di Vignola come me, è un ragazzo bravissimo. Lui sono alcuni anni, tra l'altro dal 2006, che insieme a Massimo Pastore di Bologna cura la grafica di Italia Wave, ex Arezzo Wave. Sì. E lui oggi doveva andare a Verona, se non sbaglio, a svuotare una tipografia, perché si ruba le macchine, le cose che non vengono più usate, per usarle, i caratteri tipografici, le macchine da serigrafia. Lui ha una conoscenza di tutto quello che è tipografia grafica, molto artigianale. Ed è bravissimo. Tutto vintage anche questo praticamente. Assolutamente. E lui quello che ha impaginato, che ha composto, che ha fatto questa parte qua. Il ragazzo che ha fatto invece le illustrazioni si chiama Marino Neri di Modena. Anche lui è un ragazzo bravissimo. Io quando ho visto i lavori che mi ha fatto per il disco, insomma, cioè, mi stavo per buttare in ginocchio. Lui è assolutamente è bravo, insomma, molto bravo. Anche lui ha un sito, marinoneri.com, su cui si vedono i suoi lavori. Ha fatto anche lui alcune cose abbastanza anche importanti. Ha fatto la copertina dell'ultimo disco di Alessandro Fiori, cantante, sì. Di Mariposa. Sì, sì. E poi l'altra persona che voglio citare è Marco Bini, anche lui di Vignola. Noi siamo cresciuti insieme in questo piccolo circolo di Vignola che si chiama si chiama Lavabo, Luca grafico, io musicista diciamo, e Marco poeta. Mi sono portato questa sera il suo primo libro, perché come è uscito il mio primo disco, è uscito il suo primo libro questa settimana, si chiama Conoscenza del Vento, è un libro di poesie pubblicato dall'Adolfo Editore. Adesso chiaramente mi metto qua a leggere le sue poesie. però la sua scrittura, la scrittura che c'entra, che ci siamo molto ispirati a vicenda, non lo so, sicuramente però ha influenzato molto me. Una scrittura un po' che qua molto anglosassone, non perché ce la meniamo con l'Inghilterra, ma perché abbiamo incontrato alcuni autori come Aaron Wine, Bon Iver, Bonnie Prince Billy da un lato, e lui in poesia come Shimusinei, Paul Muldoon, questi personaggi qua, Simon Hermitage, che sono tutti scrittori molto radicati nelle cose concrete, nell'osservazione, nelle cose di ogni giorno. E questo piglio molto concreto è una cosa affascinante che ci ha influenzato sia me che Marco. È molto interessante il progetto Lavabo, cioè con tre diversi punti di riferimento. Ma sì, in realtà è nato come un'associazione, c'erano dentro in 15-20 persone, cioè come tanti circoli, no? Certo. Uno spazio comunale, preso in gestione, insomma, questo organizzano concerti e altre cose, però adesso è rimasti in quattro del vero. Quattro. E l'altro che non ho citato, forse perché eravamo quelli che erano rimasti molto legati allo spazio, anche perché avevano un interesse molto concreto verso alcuni settori in cui poi, non dico, vorrei dire, lavorano con successo tutti i giorni, incassando grandi soldi, ma non lo dico, però in cui tuttora si continuano a spendere. No, che grafici guadagnano, che grafici, devo dire, non con la tipografia, le cose artigianali, ma i grafici guadagnano. La quarta persona si chiama Alessandro, lui è un altro musicista, e canta in questo gruppo che si chiama Convergence, loro fanno un genere tra l'elettronica e il new metal, per cui è una cosa molto diversa. E lui si è trasferito questo mese, sempre perché siamo in vena di spargerci, disseminarci per il mondo. Lui dal primo di aprile abita a Manchester. Ah, perfetto. Per cui una volta al mese proprio non vuole la Ryanair per fare le prove col gruppo qua. È bellissimo Manchester, sai. E poi musicalmente. Lo so. Fantastico. Ci sono stato ancora qualche anno fa, ma mi è veramente molto emozionato. Infatti anche poi tutta la zona. È partito con una valigetta di miei demo da distribuire. Sì, sì, no, è bellissimo. E devo dei prossimi viaggi, insomma. Prossime tappe sarà me. Vai, Manchester. Vai, ci sono dei locali personali poi che sono bellissimi. No, non sono ancora stato, ma me ne immagino. E poi i musicisti sono in mezzo al pubblico, quindi ti portano la tua pinta di birra e bevi e ascolti. E... Che gioia. Guarda, è un mondo bellissimo. Io ci sono rimasto veramente, ho lasciato un po' di cuore, a parte i parenti che ho, ma insomma, veramente ci ho lasciato il cuore in quei locali. Poi vedere anche le strade dei Beatles. A Liverpool, ma ho già fatto qualche giro in Inghilterra, però musicalmente ci si trova sempre volentieri. Certo. Ok, musicalmente però bisogna suonare. Cosa, Angus? Ma guarda, ditemi voi se preferite qualcosa di un po' rilassato. Quello che vuoi te, tanto fino a mezzanotte abbiamo tempo di fare quello che vogliamo. Facciamo questa cosa come avrebbe fatto Nick Drake da accanto, okay. Che dal vivo doveva mettersi lì a accordare, scordare e così via. Vi soffrite un po' di accordature, perché questo pezzo è accordato in re aperto. Si chiama To Love Somebody. Sei già pronto o devi accordare? Com'è, scusa? Sei già pronto o devi accordare? Ora mi devo accordare un po'. Sì, allora accordati intanto che io e Maurizio chiacchieriamo un po', tu fai Ottimo. Pure. Allora, questa è Blu Radio Veneto, dicevo, oggi è venerdì 15 aprile 2011, c'è Angus McCaug che sta proponendoci la sua musica, e tra l'altro è bravissimo. Vero, Maurizio? Sì, è molto bravo, e poi è musica particolare... Però la versione acustica dà un certo fascino, un certo senso alle cose, decisamente molto positivo. E abbiamo atteso molto un anno, però l'anno è passato bene, perché quando sei arrivato qua adesso, stasera, stai facendo una cosa molto molto bella. Adesso. Ricordiamo che domani sarai alla Mena di Newton e suonerai dalle 21 all'incirca. Ma penso comincerà solo alle 22. Cioè 22, quindi concerto alla Mena di Newton, un locale qui vicino alla nostra emittente, quindi... un'altra occasione per sentire Angus. Io ricordo sempre i nostri numeri di telefono, quello in studio qui è lo 049 875 6423, mentre il cellulare per mandare i vostri messaggi è il 346 23 20 033. Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino assieme a Maurizio, ma soprattutto assieme a questo cantautore bravissimo, Angus McCaug, fino alle 24, quindi abbiamo ancora circa 15 minuti abbondanti e poi saluteremo, ma intanto comunque siamo pronti. Allora ascoltiamo una canzone che si intitola, hai detto? To Love Somebody. Qualcuno da amare. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. anyone can see it. Everybody knows by your childish manners, by your lazy touch, nothing really matters. It's almost in the air. We're walking down a sidewalk. Noon delays to love somebody. You got to take a part of all the thoughts to let somebody get in touch. Everybody's asking for a place at dawn. Do you feel jumpers relaxed by someone's artist flow? You can feel it beating, ringing your chest. Nothing you can lay aside. There's nothing you won't get to love somebody. You got to take a part of all their thoughts to let somebody get in touch. You got to take it all. Somebody, you got to take a bottle of their thoughts to let somebody get in touch. You gotta take it on. You gotta take it on. You gotta take it on. Take it on. Molto bello anche questo. Anche questo, secondo me, posso dimmi. Pensare così, Angus, non so se sei d'accordo. Anche questo era un pezzo sperimentale nella sua costruzione, sia pure ridotta acustica. Perché c'è una sperimentazione, anche lo stesso ultimo canto, quel canto particolare, sì, che fai alla fine, sì, sì. È una sperimentazione anche quella. Ma guarda, questo è uno dei pezzi in cui io ho lasciato più mano libera a Davide. È stato il primo pezzo che abbiamo registrato, perché anche il pezzo un po' con cui abbiamo preso le misure. Certo. E qua lui, sì, già c'era questa cosa finale, no? Sì. Poi, dal vivo, l'altro trucchetto che diciamo che uso un microfono d'armonica dentro un piccolo ampli Fender, cioè, popolare. Spiega un momento com'è il discorso. E per avere una sonorità un po' tipo megafono, no? Sì. E con anche la voce, oltre che chiaramente con l'armonica. Certo. E, niente, ho questo microfono che è il classico ballet, no, d'armonica, quello che gli armonicisti tengono, i bluesmen, sì, tengono tra le mani, no? Sì. E l'ho montato su una roba un po' macchinosa che tengo di fianco al microfono. E dai questo effetto. Questo, no, è collegato dentro un piccolo ampli a valvole che ha un suono un pochino più caldo, no? E che fa questo effetto che altri ampli non farebbero. E per cui fa questo effetto un po' megafono, come, sì, no? E avvolgente, esatto. Però puoi anche sussurrare, perché, certo, questo effetto di prossimità che a me piace molto. Allora, partendo da questo suono, il disco in realtà Davide ha un po' di macchine studio, un po' di delay, eco, a nastro analogici, così via. Mentre io registravo, lui si è messo a spippolare, a provare a scancarare su questa roba qua, e alla fine il risultato è quello che sentite nel disco, per cui questo coro si sovrappone, va e viene, aumenta, si dilata, c'è un tamburello che entra, che si sente in lontananza. È un sacco di cose. E che è sempre molto acustico. Sì, sì, però... Però allo stesso tempo ti fa viaggiare un po' di più, insomma. Quindi è sperimentale. Quindi a me piaceva molto questa cosa. E poi, in questo momento, cioè, quel pezzo che si è nato adesso è molto drecchiano, almeno nell'impostazione iniziale. Poi, anche in questo caso, l'hai cambiato, però l'impostazione iniziale, sì, è molto drecchiano. Io avevo usato le dita, non il piatto, per questo pezzo. Esattamente. Avevo fatto delle cose fantastiche. Però è molto interessante, molto bello sicuramente. E questa dimensione acustica può essere una vista in questa maniera così scheletrica, ma scheletrica fino a un certo punto, mm-hmm, può essere una via che potresti seguire, proprio scheletrica in questo senso. Ma si guarda, adesso ti dico, voglio molto portare fuori il lavoro che ho fatto, chiaramente, certo, che poi, come ti dicevo prima, sei una sera giro da solo, con l'altra c'è il violoncello, certo, ragazzi, con il violoncello suona anche il banjo, per cui con i pezzi di arrangio col banjo da sfumatura in più. Altre volte, appunto, quando riusciamo, quelle due volte all'anno, a incrociarci, c'è anche un po' di percussioni, per cui in realtà sto un po' anche sperimentando il live. Perché il violoncello è molto decadente, il decadente e la musica acustica si combaciano notevolmente. Ma sì. Possiamo dire, sì, questo. Sì, sì, sì. Sì, cioè... Il violoncello ha un certo suono molto, molto... di petto decadente. Io ricordo molto Mazzistar, non so se ricordi Mazzistar. No, guarda, è un gruppo americano che usava il violoncello. Il violoncello in alcuni momenti, il violoncello dà quel senso alle cose. Arrangia molto, arrangia, puoi fare, sì, molte cose. Esattamente, puoi fare molte cose. Ma adesso ci siamo, abbiamo la chitarra di Angus, anche se non abbiamo il violoncello, abbiamo la chitarra che lo sostituisce molto bene, secondo me. Mi hai ricordato un pochino, vagamente, parlavamo adesso anche con Alberto. Dimmi. James Blunt. James Blunt, oddio, sì, ci sta, sì, ci sta. Vagamente, se vi passi assolutamente, paragone, cioè, parliamo comunque di una cosa che va in questa direzione. Non è uno dei miei ascolti preferiti, esatto, cioè, preferiti, io poi non preferisco, non disprezzo, sicuramente non è uno degli ascolti su cui ho più lavorato, ecco, però sì, ci sta sicuramente. Mi sembravi vagamente, certi momenti veramente sembravi lui. Non per sminuirti, scherzi, ma magari fosse James Blunt. Allora, sono le 23:52, facciamo un altro pezzo, poi ci salutiamo e ne facciamo un altro poi ancora. Per salutare, come sempre, come da tradizione, allora, di questo programma. Ditemi voi. Adesso fai un pezzo. Fai un pezzo subito adesso. Adesso faccio un pezzo. A tuo piacimento. E questo pezzo è un pezzo che ha un grande senso, perché... Si chiama Lucio Augusto Sidney. Ah, perfetto, quindi si capisce subito il perché. Esatto, ed è dedicato chiaramente a Lucio e a suo padre, che è un pazzo. Che, sì, che dopo essere andato da Modena a Caponord in scooter. Ah, però. Voleva andare addirittura fino in Australia in scooter, stava già provando il viaggio. Scooter da Modena in scooter. Sì, stava cercando le ditte che lo sponsorizzassero. Ah, per cui. Ci ha rinunciato, però cosa ha fatto? Per andare a trovare suo figlio, invece di atterrare a Sidney, è atterrato a Perth, dalla parte opposta dell'Australia, ha comprato uno scooter uguale a quello che aveva Modena e ha attraversato tutta l'Australia da parte a parte. Boh, scooter. Incredibile. Poi ha lasciato lo scooter a suo figlio, che non aveva la macchina, ed è tornato a casa in aereo. Per cui questo è un pezzo dedicato a Lucio ed Andrea Pedrazzi. Sei già pronto? Sì, ora mi invio solo la monica. Fai pure, stai tranquillo. Intanto noi tratteniamo un po' la gente. Sì, perché è bello, la gente sta vedendo con le telecamere che, che Angus si sta mettendo a posto l'armonica, tutto dal vivo, dal vivo. Quindi questo è fondamentale. Quando è pronto ci dirà lui. Sei pronto? Prontissimo. Prontissimo. much August is Sydney on a day like this, not just to take a run. Much August is Sydney, and it's strange not see him around there anymore. Much August is Sydney, and he's got a sky under his soul. Much August is Sydney, I must admit he's doing something unexpected. Well, the boy with the mind, he can do nothing but run. Got the nature is at pulling gather the lad like a drummer from hell. Put your ghost is Sydney, got a suitcase full of alarm clocks. Put your ghost is Sydney, and his father drives till Kazakhstan. Put your ghost is Sydney, and he's jagged as a one-up calf. Put your ghost is Sydney, well he knows. Sometimes planes jack away, that's unexpected. While the boy with a mug, he can do nothing but run. Got the metro is at pulling got it land like a drama from hell. Never cross it, anyone can see it disappearing now. I've made up my mind, time after time. My senses never felt so stripped, so this coming bite my skin. Blue Radio Rock Wave, l'onda del rock. Possiamo fare le play un secondo, però per Bacco. Da dove sei partito? Da dove hai finito? Facciamo le play un momento, ok? Lucio Gusti Sydney got an Edmund's cuff around his bones. Lucio Gusti Sydney and his jagged as a wanted cuff. Lucio Gusti Sydney, and the driver says to moves at guns. Lucio Gusti Sydney, well he knows. Sometimes planes jack away, it's unexpected. But the boy with a mic, he can do nothing but run. Got the nature is at, but he got it let it's such a drama from. Yeah. finito. Mi era piaciuto molto questo pezzo, ho deciso di farlo replicare immediatamente. Paganini non ripete, ma stavolta ha ripetuto. Ha ripetuto. Paganini ha ripetuto, era benissimo. Là è bello per quello anche. Sono le 23:59. Purtroppo abbiamo finito, Angus. Ricordate questo, ragazzi, ascoltatori, ricordate Angus McCog e Anorak, il suo disco. Ricordate questo nome, questo disco, che è molto interessante. Io vi ringrazio. Che dire? E un'altra volta le questioni di servizio, dove possiamo trovarlo? Allora, intanto sul sito www.angusmccog.it, ripeto, scritto angusmcog.it. Perfetto. Chiaramente sempre Angus McCog anche su Facebook. E il CD dovrebbe uscire nel giro delle prossime settimane. Mi dicevano che già dalla prossima dovrebbe trovarsi sul sito di Audioglobe, per cui www.audioglobe.it. Perfetto. E oppure, insomma, seguitemi anche sul mio sito, sui miei concerti, insomma, mi trovate, chiaramente ci sono io, c'è il CD. Benissimo, benissimo. E purtroppo veramente dobbiamo salutarci, sono le 00:14. È stato piacevolissimo, secondo me. Io vi ringrazio, piacere mio. L'anno di attesa è stato positivo, per poterti sentire e vedere qua, però è stato decisamente un concerto molto interessante, perché abbiamo sentito e abbiamo spiegato l'evoluzione di un cantautore che è partito da una band praticamente e si è sviluppato come cantautore vero e proprio, dall'elettrico all'acustico, anche se il tuo disco non è prettamente solamente acustico, è anche elettrico, è un po' più vivace dell'acustico. Sì, è un po' arrangiato. È un po' arrangiato, un po' tante cose messe assieme grazie a quello strepitoso tuo amico elettronico che ha arrangiato, sì, e che ha fatto una cosa meravigliosa. Citiamo anche il batterista che si sta ascoltando, forse Lucio Pedrazzi, dall'Australia forse. Beh, Lucio ci ascolterà, comunque gli mando il link, sicuramente ce lo ascolta molto volentieri. Perfetto. Con cosa terminiamo? Terminiamo con col pezzo che dorme al disco, Anorak. E Anorak, spieghiamo un secondo, è una parola che viene dall'Inuit, dall'eschimese, e vuol dire giaccavento. È usata anche, penso che in inglese si usi, se andate nei cataloghi di roba un po' tecnica da montagna, la classica giacca impermeabile col cappuccio. E visto che qua ci ascolto, mi dicevi anche da Belluno, certo, in montagna, ecco, di Anorak, che vedo tantissimi su giù per le Dolomiti. E mi piaceva questo nome perché Anorak vuol dire giaccavento, dal senso della scoperta, dell'uscire di casa alla scoperta, per cui all'avventura, di lanciarsi all'avventura. E allo stesso tempo dal senso di protezione, no? La giacca vento, la giacca che ti metti per uscire di casa per proteggerti dalle intemperie. E mi piaceva un po' costare questa cosa al disco, per cui. Benissimo. E qui è nata questa. Allora, noi ci salutiamo, Maurizio, e diamo un appuntamento alla settimana prossima. Sì, con altri appuntamenti, con altri artisti, sempre chiaramente su Blu Radio Veneto. Ciao Maurizio. Grazie Agostino, grazie. E grazie. Ciao Angus. E grazie a tutti, e grazie ai nostri ascoltatori, e grazie ad Angus che è venuto qua stasera. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Rock Wave, l'onda del rock. Comes the day and the sun is up. And it's beautiful. The sink it shines through the glasses. And it's beautiful. You think it will last. Leaf came into the branch. You've known so far. Crawling in the morning like a bird in the morning. Excuse me into the grass as we're going out. I'm already in the car. Will you put up your hand on rock? Think it will last. records playing in horn. It feels so far when you're driving in the morning. Don't you drink coffee in the morning?